sono le 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. I titoli: mancano due giorni al G8 dell'Aquila, la terra trema ancora, i cittadini in piazza no alle parate, l'incontro tra Napolitano e cinese Hu Jintao, affrontare la questione dei diritti umani, intanto nel nord della Cina la polizia reprime manifestanti, 140 morti. Barack Obama a Mosca, primo accordo per una dichiarazione sulla riduzione degli armamenti firmato in giornata. Partito Democratico, D'Alema scende in campo, il premier in declino, scenari imprevedibili. A Radio 24 parla Ignazio Marino, il terzo incomodo che corre per la guida del PD. Domani l'ultimo saluto a Michael Jackson. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. Il racconto di questa giornata parte dalla G8, perché mancano due giorni all'inizio del G8 dell'Aquila, tutto si dice pronto, ma con il nostro inviato Vincenzo Miglietta, buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Daniele. Vediamo subito quale sarà il programma delle giornate, quali saranno i punti aperti, i punti di contatto e quali sono secondo te ancora le distanze tra i grandi della terra. Sì, buongiorno, sappiamo quindi che il G8 partirà l'8 di luglio, tra due giorni, durerà l'8, 9 e il 10, diversi gli argomenti all'ordine del giorno, fra tutti la sicurezza internazionale e poi l'ambiente, ma è soprattutto sul punto della sicurezza internazionale, quindi sui rapporti geopolitici, soprattutto tra Stati Uniti e Russia, che si giocherà il G8, il vertice che si aprirà tra due giorni qui nel capoluogo abruzzese. Vi sono schieramenti molto netti, certamente un grande punto di contatto lo potrebbe proprio giocare la presidenza italiana. Sappiamo i rapporti molto buoni che il presidente del Consiglio Berlusconi ha con la Russia di Putin, e da qui si potrebbero aprire quindi scenari molto importanti per il prosieguo e per veramente riportare alla tranquillità, per quanto è possibile, i luoghi maggiormente a rischio del nostro pianeta, tra tutti e due il Medio Oriente e poi Afghanistan e la pacificazione dell'Iraq. Queste saranno le scommesse sulle quali ha puntato molto il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, e poi il tema ambientale, la riduzione del CO2, sappiamo anche quanto l'Italia ha pesato sulle scelte europee che hanno rimandato il piano di attuazione dell'abbattimento dell'anidrite carbonica. Da qui quindi l'importanza del G8 che sta per aprirsi qui all'Aquila, saranno appuntamenti molto importanti e tutte le diplomazie e gli Sherpa sono al lavoro per redigere fino all'ultimo i documenti che saranno la base per questo vertice. Daniele. Questo naturalmente sul fronte politico, di politica internazionale. Poi c'è l'aspetto delle proteste, al di là delle proteste che già abbiamo raccontato, cioè i cittadini in piazza, che poi racconteremo tra poco con il nostro Marcello Ianni. Cosa viene programmato sul fronte delle proteste per quanto riguarda i No Global? Riguarda le proteste dei No Global, sappiamo che un punto di riferimento molto importante sarà la città di Roma. Per quanto riguarda l'Aquila, è stato lo stesso prefetto dell'Aquila, Gabrielli, a dire che è tutto sotto controllo. Gabrielli ha detto che sarebbe veramente un delitto sprecare questa occasione con episodi di violenza. Sicuramente però i No Global cercheranno di avvicinarsi per quanto è possibile al capoluogo abruzzese. Diverse manifestazioni e sit-in sono in programma anche nelle province abruzzesi della costa adriatica, e quindi tutto dovrebbe svolgersi nella massima tranquillità. Non è escluso che però frange isolate possano avvicinarsi qui alla zona rossa di Coppito, e dalla zona rossa io vi sto parlando e devo dire che è veramente tutto sotto controllo, difficilmente qualche infiltrato potrebbe rovinare i lavori del G8. Grazie al nostro Vincenzo Mignetta, mentre poco fa Sky TG24 ha fatto vedere un'informativa con tanto di fotografie, credo che venga e che giunga dalla polizia o dai servizi segreti, in cui ci sono alcuni personaggi, alcuni soggetti che già avevano così si erano infiltrati in alcuni cortei nei giorni scorsi, sono stati protagonisti di scontri in varie parti d'Italia, a Torino per esempio, ma anche a Vicenza. Non sappiamo naturalmente chi siano, ma sono quattro soggetti che vengono identificati dalla polizia. Sul tavolo del G8 intanto arriva un testo OCSE elaborato anche dall'Italia su un approccio più etico dell'economia. 12 tavole per un'economia più giusta e sostenibile. Questa è l'aspirazione, quanto mai di attualità, al centro di un testo elaborato dall'OCSE, l'organizzazione dei 30 paesi più industrializzati del mondo, assieme a tecnici del Ministero dell'Economia italiani e tedeschi, che sarà presentato mercoledì ai Grandi della Terra. Se n'è fatto promotore il segretario generale dell'Organizzazione di Parigi, Angel Gurria. In the present crisis, we have to make an effort to get every penny that is out there possible, therefore fight what I would call the darker side of globalization, you know, the nell'attuale crisi dobbiamo impegnarci a porre attenzione a tutti quei fattori che compongono il lato oscuro della globalizzazione. Parlo della corruzione, ma anche della criminalità finanziaria, dice Gurria. Si tratta di 12 tavole nelle quali si affrontano un po' tutti i temi che in questi mesi hanno travolto le economie occidentali e si risponde alla richiesta di più etica nell'economia e nei mercati che da più parti è stata sollevata. Viene indicato, ad esempio, il superamento del segreto bancario, si chiedono nuovi standard per la difesa del lavoro e dell'ambiente, ci sono ampi riferimenti all'evasione fiscale e alla necessità di collegare i super stipendi dei manager agli obiettivi a lungo termine. Un testo, anticipato dal Corriere della Sera, che se avrà il via libera al G8, proseguirà poi il suo cammino al G20 di Pittsburgh e poi al G8 finanziario di Istanbul a ottobre. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. E sui temi del G8 il nostro Sergio Nava ha intervistato il ministro degli esteri Franco Frattini. La priorità assoluta è dare un segnale al mondo che la crisi economico-finanziaria globale può essere affrontata con delle misure che evitino in futuro la ripetizione di una tragica fase di crisi economica come quella che stiamo attraversando. Quindi un segnale forte di fiducia ai mercati, agli investitori e alla comunità internazionale. Per fare questo evidentemente dobbiamo conoscere bene l'impatto della crisi anche su continenti più poveri come il continente africano e aiutare anche questi continenti più poveri, penso al sud-est asiatico o all'Africa, ad affrontare questa fase che non è ancora di post-crisi, ma è una fase in cui il picco della crisi è probabilmente ormai alle nostre spalle. Ministro, lei ha citato poi un altro tema in realtà, che è quello proprio degli aiuti allo sviluppo. Qui però c'è un problema effettivamente, perché molte associazioni denunciano che gli impegni presi a Glinigolo sono stati del tutto rispettati e in particolare la più sotto tiro è l'Italia, perché recentemente la Caritas diceva è riuscita addirittura nel 2009 a tagliare il bilancio degli aiuti e so anche che il suo ministero, la Farnesina, ha visto un taglio degli aiuti. Allora, da un lato si fanno nuove promesse, dall'altro però non si dà l'esempio, non si rischia un fallimento. Ma noi siamo assolutamente consapevoli che la riduzione dei finanziamenti per l'aiuto allo sviluppo è qualcosa che deve essere corretto. Deve essere corretto perché anche l'Italia deve rientrare in quella strada che non tutti i partners del G8 hanno seguito, a dir la verità. Non è solo l'Italia in difetto, ma noi vogliamo uscire da questa situazione di difetto e anche in questo il Presidente del Consiglio ci ha dato indicazioni che comunque entro quest'anno i pagamenti fondamentali, quelli per il fondo globale, quelli per la lotta alle grandi pandemie, quelli saranno effettuati regolarmente, quindi l'Italia non resterà indietro. Avete un target concreto, un'indicazione concreta di quanto intendete riguadagnare terreno, in miliardi, in percentuale di PIL? Noi non sappiamo ancora questo, perché vi sarà un assestamento di bilancio e vi saranno degli impegni che il ministro Tremonti sta studiando. Vi sono però degli ammontari che riguardano le quote che ogni paese membro del G8 deve pagare entro ciascun anno, quindi in questo caso entro dicembre del 2009, la quota del fondo globale per le grandi pandemie sarà dal governo italiano pagata integralmente. Ovviamente si parlerà di Iran, mi pare di capire ormai è entrato di forza, di prepotenza nell'agenda, però altri temi caldi come il Medio Oriente, e come anche l'Afghanistan, il Pakistan, in qualche modo entreranno, ci sarà spazio? Ma vi saranno delle dichiarazioni dei leader. Il tema dell'Iran sarà collegato al tema della non proliferazione nucleare. Noi vogliamo che i grandi del mondo assumano un impegno solenne affinché vi sia un futuro senza armi nucleari nel mondo. Questo è l'impegno politico che noi ci attendiamo. Questo riguarda ovviamente non solo la bomba atomica iraniana, che nessuno vuole, ma anche la proliferazione pericolosissima in Nord Corea, che sta facendo dei test missilistici. I leader adotteranno una dichiarazione politica sul terrorismo. Bene, grazie al nostro Sergio Nava, che ha intervistato il ministro degli esteri Franco Frattini, che ci ha anticipato i temi del G8 e come si presenterà il nostro paese. Intanto però non da tregua lo sciame sismico in Abruzzo, siamo collegati con il nostro Marcello Iani, cosa succede? Sì, il terremoto continua a non dare tregua all'Aquila, due scosse, una alle 4.10, una alle 4.22, entrambe di magnitudo 2.1, sono state registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e avvertite dalla popolazione. Alle 5.34 si è registrata una nuova scossa di magnitudo 2.6 con epicentro nelle località di Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio, Forconese. La terra nuovamente tremato alle 9.02 con un magnitudo 3 con epicentro nelle località di Pizzoli, Barete e Cagnana Miterno. L'ultima scossa alle 12.02 con magnitudo 2.5 con epicentro nell'alta valle del Laterno. Tanta è stata la paura tra gli sfollati, che però contrariamente a quanto accaduto la scorsa settimana non hanno abbandonato edifici e tende. Intanto la città è sediata non solo nella zona rossa militarizzata che circonda la caserma e la finanza sede del G8, ma anche quella terremotata del centro, presidiata come non mai con l'esercito in tutti i vaschi. Non sono mancate le proteste di automobilisti, ma anche dei cittadini che hanno difficoltà nell'utilizzo dei cellulari a causa delle linee in alcuni luoghi oscurate per ragioni di sicurezza. Infine 2.000 persone dei comitati per la ricostruzione delle vittime della Casa dello Studente hanno dato luogo la notte scorsa ad una fiaccolata silenziosa per ricordare le vittime del sisma del 6 aprile. Non c'entra niente il G8, se no Global ci sono, sfilano con noi silenziosamente e correttamente, è stato uno dei punti fermi del corteo che, partito dalla Fontana Luminosa, ha raggiunto Piazza Duomo facendo sosta nella Casa dello Studente. Per il momento è tutto. Vi restituisco la linea. Grazie a Marcello Iani, questa è la situazione, come avete sentito, piuttosto complicata per quanto riguarda la popolazione intorno all'Aquila. Chiudiamo questo primo blocco, questa prima parte di Extra Large con l'ultimo saluto a Michael Jackson domani. Michael Jackson scomparso il 29 giugno scorso, intanto continuano le battaglie legali e dal passato emergono nuovi documenti video. Una cerimonia privata blindata presso il Forest Lawn di Hollywood, il cimitero delle celebrità, poi la commemorazione pubblica. Si sa ancora poco di quello che accadrà domani per dire addio a Michael Jackson. La commemorazione pubblica rifletterà i desideri della famiglia, nessun dettaglio su come si svolgerà e su chi eventualmente vi parteciperà. Non è uno show, ribadisce il portavoce, anche se si fanno i nomi di Jennifer Hudson, Stevie Wonder, dei reverendi Jesse Jackson e Al Sharpton. Oltre 1.500.000 di persone si erano registrate per cercare di conquistare un posto allo Staples Center. Questa mattina all'alba i vincitori della lotteria, 8.750, hanno ricevuto via email le istruzioni su come ritirare i biglietti, due a testa. Decine di quei biglietti però sono già finiti all'asta su eBay, con prezzi fino a $20.000. E mentre almeno 3 mandati di perquisizione sarebbero stati emessi dalle autorità di Los Angeles per determinare se le prescrizioni mediche abbiano giocato o meno un ruolo nella morte di Jacko, oggi si svolgerà un'udienza nella quale si potrebbe determinare chi ha il potere sui beni del re del pop, gli esecutori del testamento oppure i suoi genitori. E dal passato riemergono video mai visti prima. I'm not gay. I'm a black American and I'm proud of it. Questo è stato pubblicato oggi dal sito di News of the World. È il 1996 e Michael Jackson risponde nervosamente alle accuse dei legali. Si difende. Non sono gay, sono orgoglioso di essere nero, non schiarisco la mia pelle. Le accuse che mi vengono rivolte sull'abuso di minori sono tutte calunnie. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Sono le 13, 19 minuti e 22 secondi, vi parla Daniele Biacchesi, seconda parte, Extra Large, il nostro giornale, i nostri approfondimenti. Nella prima, un blocco quasi interamente dedicato al G8, ai temi, grandi temi dei grandi che si incontrano all'Aquila tra 2 giorni, ne parleremo naturalmente ancora nei prossimi giorni con i nostri inviati. In questa seconda parte, le immagini drammatiche che vengono dalla Cina, perché nello Xinjiang una manifestazione di minoranze musulmane viene repressa nel sangue. A Urumqi, nel nord della Cina, la polizia reprime i manifestanti, 140 morti. Non sappiamo dirvi quanti sono i feriti. Intanto in questo momento Hu Jintao, il presidente cinese, incontra il premier Silvio Berlusconi e questa mattina aveva incontrato anche Giorgio Napolitano, il quale ha ribadito un concetto importante, cioè lo sviluppo economico pone nuove esigenze in tema di diritti. Non si può accettare uno sviluppo economico così certo importante, ma così rapido come è stato quello della Cina in pochi anni, senza affrontare il tema importante dei diritti umani. In diretta, Andrea Viali. Sì, Daniele, sono a Villa Madama, dove in questo momento è in corso, anzi si è appena concluso l'incontro fra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Presidente cinese Hu Jintao, un incontro che è durato un'ora circa. In questi istanti sta iniziando la conferenza stampa tra i due. L'incontro fra Hu Jintao e Berlusconi apre di fatto la settimana del G8. Al centro dei colloqui ci sono stati naturalmente i principali temi di politica internazionale, anche la cooperazione economica e commerciale fra Italia e Cina. Tra l'altro è stata prevista anche la firma di una serie di accordi di varia natura fra i due paesi. Al momento invece non sappiamo se si è parlato anche del rispetto dei diritti civili e della repressione delle proteste in corso in Cina, alle quali facevi riferimento anche tu. Stamattina, come dicevi appunto, prima di arrivare qui a Villa Madama, Hu Jintao ha incontrato Napolitano, il Presidente della Repubblica, poi vedrà i Presidenti di Camera e Senato, Fini e Schifani, quindi tutte le massime autorità dello Stato italiano. Nel pomeriggio invece il Presidente cinese parteciperà al forum, l'importante forum economico fra Italia e Cina, che è in programma in un grande albergo della capitale. Con lui c'è una folta delegazione di imprenditori cinesi, sono oltre 320 che lo hanno accompagnato in Italia nella sua visita. Oggi tra l'altro ricordiamo che è prevista la firma di un accordo fra la Fiat e la cinese GAC, un accordo che consentirà al gruppo automobilistico torinese di tornare a produrre automobili in Cina a partire dal 2011. La conferenza stampa, come ti dicevo Daniele, di Hu Jintao e Berlusconi è in corso in questi minuti. Per il momento ti restituirei la linea. Grazie Andrea. La rassegna stampa internazionale di oggi con Giulia Crivelli. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno. Parte proprio dalle proteste in Cina. Ora, noi sappiamo che anche nel 1989, quando ai tempi di Piazza Tiananmen, una cifra esatta su quanti siano stati morti, quanti siano stati feriti, quanti siano stati gli arresti, non l'abbiamo mai avuta, cioè sempre percentuali molto empiriche. Qui stiamo parlando di 140 morti accertati soltanto per un luogo, cioè Urumqi nel nord della Cina, e nello Xi'an manifestazioni di minoranze musulmane che vengono represse nel sangue 800-1000 feriti. Cosa dice la stampa estera? È la notizia che apre un po' tutti i siti, naturalmente è una notizia che la maggior parte dei giornali non sono riusciti a dare, però compensa qui ancora una volta il grande mare di internet. Dalla Süddeutsche Zeitung alla FAZ in Germania, la Germania è molto attenta alle questioni cinesi, anche perché la Germania è uno dei partner europei principali commerciali della Cina. Si parla naturalmente di questi 140 morti e ci sono quei pochi filmati disponibili che stanno facendo il giro di internet, ma tutti i siti, e quindi qui passiamo anche a quelli francesi, da Le Monde alle Figaro, a quelli americani, a quelli inglesi, danno naturalmente una scheda per cercare di capire quali sono i problemi di questi scontri, quindi le minoranze, in questo caso una minoranza musulmana, il terrore un po' della Cina di queste rivolte legate alla religione, e poi soprattutto tutti sottolineano, è il caso per esempio del New York Times, come ancora una volta il ruolo di Facebook, di Twitter e di tutti i social media, i social network, anche di YouTube, sia stato importantissimo, e naturalmente ha fatto arrabbiare ancora di più le autorità, perché i video sono circolati, le prime informazioni sono circolate naturalmente non in modo ufficiale, non dai media ufficiali, ma su questi social network. Per esempio appunto il New York Times sottolinea come ancora una volta la Cina si sia mossa, cioè le autorità si siano mosse in ritardo, perché non hanno capito che se volendo bloccare le informazioni bisognava subito agire, e per fortuna in un certo senso non l'hanno fatto, su YouTube e Twitter, cosa che però probabilmente succederà nelle prossime settimane, nelle prossime ore. Abbiamo visto come già nelle scorse, quando ci sono state le proteste per l'anniversario di Tiananmen, è successo proprio questo, cioè sono stati messi dei filtri su internet perché le informazioni, quelle poche informazioni non ufficiali che c'erano, non circolassero più. Quindi tutti approfondiscono questo ruolo ancora una volta cruciale dei social media. Grazie a Giulia Crivelli. Quando sono le 13:25 e 19 secondi, rimaniamo sempre nella logica della politica internazionale, perché oggi è il giorno di Obama a Mosca. Buongiorno ad Antonella Scotta. Buongiorno. È vero che gli Stati Uniti e la Russia hanno trovato l'accordo sul testo, o è un... per questo accordo è un accordo vero, oppure diciamo un accordo solo di protocollo sul trattato di riduzione delle armi nucleari, e comunque più in generale dovrebbe mettere un, non dico la parola fine, ma un passo in avanti in questo negoziato? Ecco, sì, un passo avanti, hai detto bene. L'accordo sarebbe stato raggiunto, questo finora lo hanno detto i negoziatori, però per avere un'idea di che portata avrà dovremo aspettare le 6 di questa sera, le 4 per l'Italia, quando i due presidenti, Medvedev e Obama, che in questo momento sono a colloquio al Cremlino, confermeranno quello che i negoziatori avrebbero concordato, cioè si immagina che diano un'idea dei progressi che sono stati fatti in modo da arrivare a dicembre, almeno questi più o meno sono i piani, al rilancio del trattato START sulla riduzione delle testate nucleari. Questa è la parte più facile della visita, nel senso che è qualcosa, ridurre le testate nucleari è qualcosa che in fondo fa comodo un po' a tutti e due, e servirà forse soprattutto però a creare fiducia, a migliorare il clima, e quindi poi si vedrà il resto, la parte più importante della visita, che verrà anche domani con l'incontro con Putin. Un po' di fiducia e un riavvicinamento sul fronte del disarmo potrebbe aiutare a affrontare i temi più difficili, l'Iran e lo scudo spaziale in Europa. E comunque si scontrano due posizioni diverse, due personalità diverse, Obama da una parte, Putin dall'altra. Sì, premesse non sono delle migliori, no. Dopo che da una parte Obama ha parlato di Putin come di una persona con un piede ancora nella guerra fredda, Putin ha risposto molto piccato dicendo che la Russia tiene bene saldi i piedi per terra e guarda avanti, e così si rafforzerà. Sarà infatti questo, secondo me, il momento cruciale di questa visita, è domani mattina a colazione si vedranno Obama e Putin, e soprattutto dalla faccia di Putin capiremo quanto sarà riuscito questo summit. Grazie ad Antonella Scott. I titoli delle principali notizie: mancano due giorni al G8 dell'Aquila, la terra trema ancora, i cittadini in piazza, no alle parate, l'incontro tra Napolitano e il cinese Hu Jintao, affrontare la questione dei diritti umani. A Urumqi, intanto, nel nord della Cina, la polizia reprime i manifestanti, 140 morti. Obama a Mosca, il primo accordo per una dichiarazione sulla riduzione degli armamenti sarà firmato in giornata. Immigrati, la CE, il governo, sì alla sanatoria.

Intanto si delineano le candidature per la guida del Partito Democratico. Oltre a Dario Franceschini, attuale segretario, l'ex ministro Pierluigi Bersani, nel weekend, lo sapete, è sceso in campo Ignazio Marino, quello che alcuni definiscono il terzo incomodo. Lo ha intervistato Paolo Piacenza. L'idea è quella di dare un contributo al dibattito legato ai problemi reali delle persone, i precari, la condizione femminile, la nostra scuola, la nostra università, il mondo del lavoro, le problematiche del terzo millennio come quelle del welfare e dell'ambiente. Insomma, uscire dai personalismi e mettere al centro la vita reale della gente, delle persone, dei cittadini, che suggeriscono le loro difficoltà, i loro problemi e partecipano responsabilmente alla ricerca delle soluzioni. Lei punta proprio sulla partecipazione, sul coinvolgimento anche di nuovi iscritti da qui al momento del congresso per come dire, rafforzare il suo schieramento, perché sulla carta in teoria è il più debole, però potrebbe essere proprio la novità l'arma vincente. Ho chiesto a tantissimi di dimostrare di esserci con la loro presenza iscrivendosi al Partito Democratico per poter votare la mozione e quindi le idee che presenterò e in questo modo di permettermi di partecipare al congresso e quindi poi alle primarie. Non teme che poi sia alla fine soltanto una candidatura di rappresentanza? Non è questo l'obiettivo, è anzi uscire dalla rappresentazione di vecchi schemi personali o personalistici e rimettere al centro la realtà, la vita quotidiana, le difficoltà delle persone in un paese dove una piccolissima parte continua ad arricchirsi e una grande maggioranza non riesce ad arrivare alla fine del mese con il proprio stipendio. Ecco, uno dei temi oltre alla battaglia per la ricerca è sicuramente quello per la libertà e la laicità. Questo è un tema che però spacca il PD. Il Partito Democratico ha l'ambizione di essere un partito aperto alla società. Io non riesco a concepire un partito aperto alla società che non tenga al centro la questione della laicità dello Stato. Lo Stato è lo Stato di tutti, non è lo Stato di una parte. Lei ha detto che avrebbe evitato le polemiche dirette e personali nei confronti dei suoi competitor, ecco. Però le chiedo allora una cosa che le piace, una cosa che non le piace dei suoi avversari, di Dario Franceschini e di Bersani. Di entrambi mi piace il fatto che abbiano accettato volentieri l'idea di una terza candidatura improntata a rimettere al centro la vera discussione sulle idee, sui problemi reali delle persone. E in questo momento non posso dire cosa non mi piace, se non il fatto che entrambi nei loro schieramenti hanno anime diverse e quindi immagino che poi sarà molto difficile fare una sintesi, ma questo ovviamente è un giudizio prematuro, dobbiamo attendere che ognuno presenti il proprio programma. Quale sarà secondo lei l'elemento chiave perché questa vicenda congressuale non sia una nuova sconfitta, un prolungamento delle difficoltà del PD e sia invece un'occasione di rilancio? Se noi arriveremo al 25 di ottobre con un'identità più precisa di quelli che sono gli obiettivi del Partito Democratico sui tanti temi importanti, la casa, il lavoro, l'istruzione, la sanità, l'ambiente, e quindi le persone sapranno su ognuno di questi argomenti cosa pensa in maniera chiara il Partito Democratico e nello stesso tempo avremo fatto avvicinare più persone a questa forza politica che nasce da un'intuizione straordinaria, quella di mettere insieme più culture perché insieme modernizzino il Paese, noi avremo fatto non solo un grande regalo al Partito Democratico ma uno straordinario passo avanti nella modernizzazione del Paese. Potremo ritrovarci alla Scala per riscrivere insieme la nuova identità della città. E questa è la proposta del sindaco di Milano, Letizia Moratti, in una lettera aperta che è stata pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Perché un dibattito è stato avviato dal presidente della Triennale, Davide Rampello, con il Manifesto di Milano sul futuro e l'identità di Milano, soprattutto sul piano dei mestieri e della cultura. Adriana Fracchi ha intervistato Davide Rampello. La provocazione era precisa, era di riproporre la cultura del fare, ma riproponendo la cultura del fare si ripropone anche la cultura diciamo di un certo modo di agire, di un certo modo di vedere le cose, di concepire le cose. E chiaramente la cultura del fare è una cultura che si basa anche sull'intelligenza della cultura delle mani, per cui è una riproposizione innanzitutto del fare in senso generale, ma nello specifico per esempio della valorizzazione di tutto quel patrimonio incredibile che abbiamo di artigiania diffusa, che va dall'agroalimentare alla artigiania dei materiali, di cui l'Italia è ricchissima, ma della quale è andata perduto moltissimo, peraltro, c'è da dire, per cui è a maggior ragione bisogna, diciamo, far presto e non perdere questa occasione, perché tutte queste artigianie sono alla base dell'eccellenza di tutta una serie di, nell'ambito del design, nell'ambito appunto dell'agroalimentare, nell'ambito della moda. E è chiaro che questa valorizzazione implica veramente, come posso dire, un modello di vita anche diverso, una diversa concezione, per esempio, del tempo. Lei cosa risponde a Letizia Moratti? Beh, innanzitutto devo dire che il senso del manifesto è stato quello di rendere manifesta le idee di tantissimi altri protagonisti della vita culturale, e poi oggi mi fa piacere perché a questi sono aggiunti anche gli esponenti di categorie, di fondazioni bancarie, università, eccetera, per cui questa cosa rende ancora più spessa e complessa questa adesione, e perciò dico che non posso altro che aderire, evidentemente, personalmente, e aderire come presidente della Triennale e cominciare da adesso che c'è stata questa evidenza del tutto, prendere questa evidenza, questa emergenza, per finalmente allinearci e proseguire assieme su questo lavoro, su questo cammino. E riprendiamo la quarta parte di Estra Large con la conferenza stampa di Silvio Berlusconi. Italia-Cina, fa ripartire i negoziati Doha, è quello che sta dicendo in questo momento Berlusconi. Possa preparare una proposta per la prossima riunione delle Nazioni Unite che si terrà in dicembre di quest'anno a Copenaghen, che possa essere una proposta condivisa da tutti, a cui tutti possano obbligarsi. Quindi il G8 costituirà uno step, ritengo, importante attraverso il G14 per arrivare ad una soluzione positiva che sarà assunta in sede Copenaghen. Questo è Berlusconi sul cammino dei vari negoziati in vista del G8, del G14, e ci sono le domande dei cronisti, di una giornalista credo cinese, sentiamo. Sarà il 40° anniversario dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia. Nel contesto della diffusione e continuo aggravamento della crisi finanziaria, in quale modo Cina e Italia possa affrontare concretamente le cooperazioni e trattare l'opportunità nella crisi? Questo è il presidente Hu Jintao, presidente cinese, nella conferenza con Berlusconi. Espansione della crisi finanziaria sulla scena internazionale ha portato grande ripercussione sullo sviluppo economico dei paesi del mondo e la vita dei cittadini. Sulla crisi dunque economica, Hu Jintao. 13:47 minuti, veniamo all'Iran, dove questa mattina è stato liberato uno dei due dipendenti dell'ambasciata britannica a Teheran. La liberazione è stata preannunciata dal ministro degli esteri britannico David Miliband. 9 dipendenti iraniani dell'ambasciata a Teheran erano stati arrestati la scorsa settimana con l'accusa di aver istigato i moti di piazza. Intanto, nonostante la censura e la repressione, il quadro politico resta instabile e la spaccatura attraversa anche i vertici del potere. Anche grazie al blackout mediatico, il governo di Teheran sembra riuscire a contenere la voce della protesta di piazza, ma non quella del dissenso all'interno dello stesso establishment del regime. Ieri, con un gesto di aperta sfida alla guida suprema Khamenei, che le ha ratificate, un'importante associazione religiosa di Qom, che è il centro del clero al potere, ha contestato la validità del voto del 12 giugno scorso. Sempre ieri, altre due significative adesioni a sostegno del fronte moderato. La prima, dell'ex presidente Hashimi Rafsanjani, che ha ricevuto in pubblico le madri dei ragazzi arrestati nella protesta. la seconda del figlio di un simbolo della rivoluzione comunista, il grande Ayatollah Hussein Bahashti, che ha chiesto al Parlamento di non ratificare la vittoria di Ahmadinejad. Intanto il grande sconfitto Mir Hossein Mousavi non demorde. Ieri il leader riformista ha diffuso sul suo sito un rapporto di 25 pagine per spiegare nel dettaglio i brogli avvenuti nella consultazione. Adif Fatah Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. E repressione e censura stanno colpendo l'opposizione anche in Honduras dopo il colpo di Stato. Era il 28 giugno, il giorno del golpe. Il presidente Manuel Zelaya era appena stato destituito, arrestato e portato con la forza in Costa Rica. Sono gli ultimi video trasmessi dai media, finiti su YouTube, ma non le ultime proteste. Il tempo di rovesciare il governo con un colpo di Stato, di insediare il nuovo presidente Roberto Micheletti, poi il silenzio. La cadena nacional, come si dice in Honduras, e il coprifuoco. La censura morde sui mezzi di comunicazione che non si allineano al potere. Una radio riesce a trasmettere un'intervista a Zelaya, le viene tolta in immediatamente l'elettricità. I canali televisivi ignorano le marce dell'opposizione, esaltano quelle filogovernative. Alcune emittenti, soprattutto locali, non trasmettono da una settimana. Lo Stato adesso è isolato, espulso dall'Organizzazione degli Stati Americani, episodio che non accadeva dal 1962, quando toccò alla Cuba castrista. Ma i militari non fanno un passo indietro. Il neopresidente Roberto Micheletti riceve la stampa straniera anche due volte al giorno e accusa la presunta disinformazione che circonda la vicenda. Tutto quello che abbiamo fatto è legittimo, questo non è un golpe, gran parte del paese è con noi. Lo ribadisce anche oggi, giorno in cui sono morte due persone, tra cui un ragazzo di 12 anni, negli scontri con l'esercito dopo che il governo ha impedito a Zelaya di rientrare nel paese. Il golpe in Honduras si ripercuote in tutta l'America Latina, mobilita i governi contro un incubo che ricorda le dittature degli anni 70, ma con una differenza: internet, i racconti del web. Il discorso di Zelaya censurato si trova su Twitter e dalla rete e dai blog arrivano anche informazioni sul controllo dei militari nelle redazioni e sui giornalisti honduregni minacciati di morte, come Luis Galdanas, redattore di Radio Globo, l'unica emittente libera della capitale, fino ad oggi. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed ora il consueto appuntamento sportivo in avvicinamento dei mondiali di nuoto a Roma. Roma 2009, mondiali di nuoto. 31 anni, nato a Napoli ma cresciuto in Australia, 4 Olimpiadi, 60 medaglie internazionali tra cui un oro, un argento e due bronzi olimpici. Massimiliano Rosolino è di fatto il simbolo dell'Italia del nuoto che vuole essere protagonista ai mondiali di Roma al via il 17 luglio. E allora eccolo a Radio 24, Max Rosolino a bordo vasca, a cuore aperto e col pensiero già al grande appuntamento iridato. Ma non male, secondo me ho lavorato molto bene, ok? Vediamo un po' che succede nelle prossime settimane. Sicuramente sono fiducioso, perché alla fine chi semina raccoglie. Sei un po' anche la bandiera di questa spedizione per esperienza, curriculum, ma in vasca sì. Quali sono gli obiettivi che hai nel mirino? Tutto quello che si è fatto prima si cancella, perché ogni gara veramente uno deve cercare di fare bene e ancora meglio. 60 medaglie accantoniamo, è ovvio che uno va sempre con il sogno. Sulla gara individuale è molto difficile, però in effetti vado lì per io mi sono allenato per fare bene sia nella gara individuale che in quella di squadra, la staffetta, però è dura da ambedue le parti, perché non soltanto nei quattro stili ci sono un parterre di partecipanti infami proprio, e poi anche nella 4x2 in effetti solo per entrare in squadra bisogna giocarsela, perché siamo in 6 e ci sono 4 posticini. Inevitabile chiederti un parere sulla vicenda costumi, come se ne esce ragionevolmente? Ma sai, la verità è che io a 20 giorni dei mondiali uno deve pensare di aver fatto bene, va bene, se no entriamo nelle polemiche, sono cavolate adesso. È ovvio che la tecnologia ha snaturato un po' la prestazione, va bene, perché altrimenti non credo che ci sia stata una rivoluzione tecnica degli allenamenti per far sì che tutto l'anno si nuoti sempre ad altissimo livello, va bene, soprattutto le ultime generazioni, però voler tornare indietro in maniera esagerata neanche sta bene. Il costumino credo no, è assolutamente no. L'importante è che ci siano delle regole giuste e ferree. Se si può mettere l'effetto gommone, tutto effetto gommone. Se bisogna mettere l'effetto spiaggia, tutto effetto spiaggia. Questa è la cosa che chiediamo. In quest'ultimo periodo sta emergendo anche l'idea di un sindacato nuotatore, no? Questo è giusto, questo lo trovo giusto. È giusto che gli atleti preti abbiano comunque una parola in merito a qualsiasi decisione, perché in effetti siamo noi gli attori principali. È ovvio che ci sono delle cose in cui dobbiamo entrare, altre in cui bisogna lasciare a chi è di dovere, insomma, la decisione. Però che ci sia un comitato, diciamo, veramente degli atleti, è pienamente d'accordo. Il nome del dominatore di Roma, Pechino, è stato Phelps, si ripeterà oppure chi dobbiamo guardare? Ma sinceramente a me non me ne frega proprio, l'importante è che vado bene io, gli altri possono vincere 25 medaglie d'oro, a me poco mi cambia, insomma. Però sai, visto che giochiamo in casa, mi auguro che l'Italia riesca a fare un mondiale, un bel mondiale, ok? Perché ne abbiamo fatto bellissime gare negli ultimi mesi, va bene, a livello europeo, adesso anche giochi mediterraneo, la squadra ha fatto bene, non soltanto per piazzamenti che magari possono essere passare in secondo piano, ma a livello cronometrico siamo stati molto bravi e sarebbe bello poter, appunto, dettare legge forse no, però dire la nostra in casa sì. Tutti i giorni dunque con Dario Ricci per mano verso i mondiali di nuoto, in chiusura i consigli del nostro gastronauta. Il consiglio di oggi corre a Mozzo, in provincia di Bergamo, al ristorante La Caprese. Questo locale storico ha cambiato sede, ora è diventato molto elegante, molto accogliente rispetto al passato, però la cucina è rimasta tale quale, sempre di grandissima qualità, con un pesce davvero di primissima scelta. Bene, la cucina si ispira molto alle origini del patron, che appunto sono capresi, quindi pesce che si mangia o crudo con limone e olio, oppure delle paste sicuramente di Gragnano condite di volta in volta con pesci diversi a seconda del mercato, e del pesce al forno o del pesce fritto, sempre, diciamo, caratteristico della costiera, quindi sicuramente delle origini capresi del nostro personaggio. Bene, si può chiudere con una pastiera oppure appunto con la torta caprese. Lo ripeto, il ristorante si chiama La Caprese a Mozzo, in provincia di Bergamo. Le notizie principali di oggi: mancano 2 giorni al G8 dell'Aquila, terra trema ancora, i cittadini in piazza no alle parate. L'incontro tra napoletano e il cinese Hu Jintao, affrontare la questione dei diritti umani. Intanto a Urumqi, nel nord della Cina, la polizia reprime i manifestanti, 140 morti. Obama a Mosca, primo accordo per una dichiarazione sulla riduzione degli armamenti. Immigrati, la CEI al governo, sì alla sanatoria per le badanti. Partito Democratico, D'Alema scende in campo, premier in declino, scenari imprevedibili. A Radio 24 ha parlato Ignazio Marino, il terzo incomodo che corre per la guida del PD. Domani l'ultimo saluto a Michael Jackson. Mi saluta qui Daniele Biacchessi, le prossime notizie alle 15. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.